Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanide in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Il numero verde per intervenire 349-238-6666, questo non è il numero verde ma quello dei messaggi. Quello per intervenire invece, il numero verde è 800-24-0024. Messaggi, perché già me ne sono arrivati un paio. Uno domanda quando rientra Gallinari, Valerio da Lambrate, non mi sembra imminente il ritorno del Gallo, l'altro invece tralascerei. Dovrebbe esserci anche il coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao ragazzi. E con me qui in studio Sessiena, Minucci, Cantù, a Bruno Arrigoni. Ciao Bruno. Bruno, eccoci qua, buongiorno a tutti, buona giornata a te Dan. Coach, tra l'altro leggevo oggi tua lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport a firma di Luca Chiabotti, e tu che dici, per essere come Siena ci vuole ancora un po', dobbiamo cominciare ad essere come Cantù e non lo siamo ancora. Giocano benissimo, Trinchieri è bravissimo, ma anche lui non ha creato la squadra in un giorno, confermi? No, ma l'ha creato Trinchieri insieme al mitico Bruno Arrigoni, che è veramente il mago di fare le squadre, bisogna dire questo, quindi, e non lo dico perché non lo diciamo anche quando non c'è Bruno, veramente complimenti a lui ancora per la squadra che ha messo insieme, gioca insieme, Trinchieri lavora benissimo, e se la mia squadra giocasse come gioca Cantù sarei l'allenatore veramente felice. Hai capito, okay. Bruno? Troppi complimenti in una volta sola. Sì, anche perché qui Gattacicova, dato che calendario alla mano, Milano-Cantù rischia di essere derby di ritorno, quello di andata è quello che poi ha portato al terremoto, che ha ridato Dan Peterson al basket. Quello di ritorno rischia di essere a battaga feroce per il secondo posto che vale l'Eurolega. Ci sono ancora parecchie partite in mezzo. Voi coach avete Siena, che tra l'altro è stata spostata a giovedì 14 aprile, e poi il 23 aprile, 12ª giornata, Milano-Cantù. Mi viene da dire come Billy Squibo, come Billy Ford, insomma, di una volta. Guarda, io spero che sia ancora valido per il secondo posto, perché siamo a pari merito adesso a favore loro per 1-0 in campionato, perché se riusciamo a mantenere il passo di Cantù, questo indica che noi avevamo una buona squadra, questo è poco ma sicuro, e dobbiamo farcelo, perché abbiamo avuto un momento di flessione, non ci sono dubbi su questo, e dobbiamo far dimostrare che siamo usciti dal momento, assolutamente. Bruno? Come ma, la vedi? La vedo, acqua sotto i ponti, però siete pari. No, la vedo così, che intanto la partita, cioè questo turno di campionato, che è il turno dopo la sosta, sarà abbastanza importante, perché come tutti i turni dopo la sosta ci sono 8 partite, vabbè, una è già archiviata che era un test e coda abbastanza scontato, e poi ci sono le altre 7 partite, delle quali chi vince è merito della sosta che ha portato giovamento, chi perde colpa della sosta perché abbiamo perso il ritmo partita, e quindi staremo a vedere. E poi sostanzialmente io non credo che sarà la partita a Milano quella che deciderà il campionato, perché io lo dico molto sinceramente, per quello che penso da tempo, che credo che Milano sia assolutamente la seconda forza del campionato, e noi non siamo la seconda forza del campionato, anche se giochiamo bene, siamo contenti, siamo felici, però non è questo il nostro posto. Diciamo che arrivare terzi a me starebbe bene e firmerei oggi. Quindi gli butti, povero Cosi, gli butti tutta la pressione addosso. No, ma questo... Arrigoni, faccio io la firma che voi siete terzi, ok? Va bene, d'accordo. Abbiamo fatto in fretta a metterci d'accordo, abbiamo fatto. Coach, com'è andata la settimana? Questa settimana molto importante per voi. Tra l'altro giocherete 2 partite in un mese, quindi tanto tempo per lavorare. Sì, ma veramente una partita in 4 settimane, ma meno tempo per lavorare di quanto si pensa, perché stiamo recuperando Petravic e si ancora molto lentamente. Hawkins ha questa terribile tendinite al ginocchio destro e ha fatto un cenno di allenamento ieri con molta sofferenza. Speriamo di avere lui domenica, tanto per dire, poi abbiamo altre 2 settimane per mettere lui completamente a posto, però quando non c'è Hawkins perdiamo un giocatore su cui gira sia l'attacco che la difesa, e quindi siamo in fase veramente di recupero, sempre mordente a qualcosa, Mancinelli a male al gomme, mordente spalla e tenne Achille, Mancinelli gomme, come tutte le squadre abbiamo i nostri problemi, quindi la qualità del lavoro soffre un pochettino. Per chiudere, coach, domenica contro Montegranaro sarà bello anche per un altro motivo. c'è giornata del tifo positivo con un sacco di ragazzini della scuola di tifo dell'Olimpia, ma anche di un'altra scuola di tifo. Io tifo positivo, in cui sono coinvolte tra l'altro Milan, Inter e varie entità, insomma un migliaio di ragazzini che stanno imparando, le parolacce. Io spero che stiano imparando a vivere correttamente lo sport. Cosa dici, coach? No, ma ovviamente Bruno scherza, ovviamente questa è una cosa estremamente educativa. Io sono per la grande educazione sportiva, perché se c'è una differenza fra America e l'Italia è che noi, andando a scuola, essendo sotto i professori, gli allenatori, fin dall'elementare, giocando le partite, soffrendo, imparando a perdere, vincere, eccetera, noi, almeno la mia generazione, ha imparato di capire il dramma della partita, la sconfitta, la vittoria. Adesso, anche pure in America, grazie a troppa organizzazione a livello basso e troppi interventi dei genitori, anche noi stiamo perdendo questo qui, e il tifo ne soffre. Okay? Quindi, anche in America i genitori ci mettono il becco. Non me ne parli, okay? Quindi è una cosa universale ormai. E quindi qualsiasi cosa per dare educazione ai bambini, come abbiamo avuto noi, alla mia generazione in America, io sono propositivo. Assolutamente. Coach, un abbraccio, in bocca al lupo. Ciao, Dan. Adesso ti cucino Bruno Arrigoni. Architetto di Tante Cantù, questa forse è la più bella. No, Bruno. Ma diciamo che è una delle più belle. Noi ci ricordiamo chiaramente i nostri quattro idoli, cioè i nostri idoli americani del tempo che fu. Ecco, era una squadra completamente diversa, giocatori di squadra, però grande individualità, grande atletismo. Questa è una squadra più rasoterra, una squadra europeizzata, dove molti fanno fatica a schiacciare, però onestamente questo è merito dell'allenatore, e riescono ad esprimersi coralmente a un eccellente livello. Senti, a che punto è il rinnovo dell'allenatore? L'ascoltatore, mica io. Chiede l'ascoltatore, che è un ascoltatore sagace. Ecco, Andrea Trinchieri ha ancora un anno di contratto con un'uscita. Noi, il nostro desiderio sarebbe che lui così accettasse di rimanere ancora per un altro anno, ancora dopo il prossimo anno, e metteremo un po' le carte sul tavolo con la sua agenzia e speriamo che il nostro allenatore voglia aderire al nostro progetto, ecco, futuro. Sì, e altra domanda, sulla base di quali criteri fa il reclutamento? Diciamo che la fortuna ha un peso, diciamo, importante. Ecco, io cerco, come ho preso mia, fatto mia una frase di Sbezzi, che è uno degli agenti più, dei procuratori più importanti della nostra pallacanestro, il quale dice che i giocatori bisogna metterli uno vicino all'altro e non uno sopra l'altro. Ecco, io credo che questo sia un po' il segreto di tutti quelli che operano sul mercato, cioè ci si prova a fare in modo che tutti vadano vicini e sia come un puzzle che dopo alla fine dà un'immagine chiara. Ecco, il problema è quello che tutti i giocatori abbiano delle responsabilità ben definite, ognuno sappia cosa deve fare. Ecco, e credo di avere in mente questo schema operativo. Ecco, poi io disgraziatamente sono vecchio abbastanza e sono nella pallacanestro dal 1959, che sembra veramente un secolo fa, ecco, per cui ne ho visti tanti e cerco di così, questa mia esperienza, di metterla al servizio di questo schema operativo. Come comunque la cosa importante è di prendere giocatori che stiano bene insieme tecnicamente, ecco. Sì, come valuti adesso che ci sta ascoltando ma non è più qui, non può replicarti, il ritorno di Coach Peterson? Pallacanestro, tu citavi questa tua lunga esperienza da allenatore prima e da dirigente poi, questo mi sembra la chiave, di una chiave importante. Ebbene, cosa dice? Mi sto abituando a una pallacanestro che è fatalmente diversa, lontana anni luce da quella che ho lasciato nell'87. Questo suo ritorno, come lo valuti? Ma io credo che l'operazione, questo così, biunivocamente, da una parte Milano decidendo di cambiare l'allenatore, che è una cosa assolutamente traumatica, ecco, non è traumatica solo per l'allenatore che lo subisce, ma traumatica per i giocatori, per la società, ecco, però decidendo di cambiare allenatore per dare una scossa un po' a tutto quanto, ecco, ha preso una persona come Peterson, che non è solo un tecnico importante, è un uomo di grande esperienza, di cultura cestistica e non, ecco, e che soprattutto si presenta al popolo della nostra pallacanestro, e non solo della nostra pallacanestro, perché tutti quanti hanno parlato di Peterson in quei giorni, certo, e ancora continuano a parlare di Peterson, per cui credo sia stata un'operazione giusta, ecco, e importante per la società. Da parte vista dell'allenatore, l'allenatore si è rimesso in gioco. Io mi ricordo una frase che aveva detto Peterson, non so, 10 anni fa, aveva scritto su uno dei suoi interventi sulla Gazzetta dello Sport, e aveva riportato una frase di un vecchio allenatore americano, quale diceva: io come conoscenza della pallacanestro potrei allenare 3 squadre contemporaneamente, però quello che mi manca oggi è l'energia per potermi tirare i giocatori dietro. Ecco, io quello che trovo veramente stupefacente in Peterson è che lui abbia veramente un'energia così forte, perché non è facile tirarsi i giocatori dietro, certo, quei giocatori, certo, hanno la loro testa, hanno i loro pregiudizi, hanno le loro idee, hanno la loro immagine da difendere, quindi non è facile cercare di far sì che tutti si mettano a disposizione di un progetto tecnico e tutti lasciano lì qualcosa del loro a disposizione di tutti quanti. Quindi il secondo, ecco, posto glielo lasci? Il secondo posto glielo lascio se capita, se poi arriviamo noi saremo molto più contenti, così faremo un incasso in più, faremo un incasso in più che ci serve. L'Eurolega, questo secondo posto è particolarmente importante, ricordo che l'anno prossimo ne avremo 3 in Eurolega, se Roma si qualifica per i playoff allora ci andranno Siena e la seconda, che vedremo chi sarà. Io ho un ascoltatore, Michele da Valenza, che 2 o 3 volte mi chiede se so qualcosa sulla promozione in A1, discorso molto complesso, non ci sono novità, vale il meccanismo della wild card, una va su, l'altra vediamo, salvo pagamento della penultima, e vediamo anche che se c'è qualcuno che riesce a sopravvivere. Però al di là di questo, di questi giorni la notizia, anzi sussurri sulla rivoluzione dei campionati, su un'ipotetica Serie A allargata 22-24, chissà, su una Lega 2 che tornerebbe ad essere dilettantistica, cosa sai di questo? Ma si sa poco, perché onestamente è venuto fuori così come un porcino da 2 kg dopo la pioggia, una giornata di sole, però onestamente non si capisce da dove sia partita, cioè si è trovata sui giornali da tutte le parti, e attualmente è una cosa che ha intrigato molti. Però io qua voglio dire questo: quest'anno, con il salvataggio bellissimo di Avellino, che ha recuperato dalle sue difficoltà economiche, noi non abbiamo squadre in evidente emergenza finanziaria, avremo qualche emergenza tecnica, nel senso che è chiaro che le squadre che sono in fondo patiscono, però non sono squadre che sono lì che per fallire, per cui è chiaro che anche perdersi delle squadre che dopo alla fine sono economicamente sane e che hanno inciuccato un anno disgraziato dal punto di vista tecnico, ci dovrebbe fare attenzione, riflettere. Io ho sentito 15 giorni fa alla partita Casale Monferrato Scafati, Franco Lauro e Michelin hanno intervistato Bianchini, e scandalizzati sulla wild card, se uno si poteva comprare la salvezza, sì, dal punto di vista morale, e Bianchini, che è sempre 2 passi avanti a tutti, ha detto no, ma è giusto, perché è giusto che ci siano le franchigie, poi secondo il campionato deve essere un campionato di sviluppo, anzi se non ci fossero autocessioni sarebbe meglio, e naturalmente questi sono rimasti lì con la bocca spalancata, perché diciamo, il fascino della lotta per non delle autocessioni retrocessione. Dico, urca, onestamente io il fascino della lotta alla retrocessione non lo vedo tanto. Che uno si debba svenare per non retrocedere non mi sembra così una cosa così intelligente, ecco. Uno potrà svenarsi per vincere qualche cosa, questo posso anche. Uno fa dei debiti per vincere qualche cosa, ma uno deve fare dei debiti per non retrocedere, tutto questo fascino onestamente non lo vedo, ecco. Paolo Vicenza, primo ascoltatore di oggi, 800 24 00 24, numero verde. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo salutare l'amico Bruno Arrigoni, con il quale abbiamo giocato insieme dal 1959 fino al 65-66 alla Canottieri Milano. Mamma mia. Ciao Bruno. Ciao, ciao. Ti ricordi Paolo sì. Ciriani? Mamma mia, mi ricordo, sì, era l'unico lungo che avevamo. Ecco, Beh, c'era anche Marco Pozzesi, c'era Marco Sala, certo. Ma soprattutto avevamo un grande allenatore che era Mario Borella. Signor Borella, mamma mia. Dici tutto, Paolo, coraggio. Piacere d'averti sentito. Piacere sentire anche me, mio. Grazie. Ciao, ciao, ciao Paolo. Dunque saluti da un compagno di... Mamma mia. Dunque, alla prima partita che io ho giocato, noi abbiamo giocato contro Simmental Allievi e... Dove giocava Massimo Masini. Sì. È finita 96-18 alla Forza Coraggio. La prima palla contesa l'abbiamo vinta noi, è che è scatto in mano questo a Paolo Ciriani. E questo lì è partito diretto andando verso il nostro canestro. Tale era l'emozione. E uno mi fa, ma dai, ma qui io dico, ma tanto lo sbaglia, ho detto io. Ecco. Perché in effetti ha sbagliato e sono partiti 0-0, poi ce ne sono andati quanti ne hanno voluti. Sì, qualcuno. Senti, che impressione ti ha fatto la nazionale domenica? È chiaro che lo Stargame è una cosa così, tante facce nuove, ecco. Qualche faccia interessante, secondo me, ad esempio quella di Cinciarini, si è detto, poi, ma secondo me anche quella di Viggiano. Che nazionale è quella che sta nascendo? Io credo che, insomma, la nazionale sia un punto di riferimento importante. Ecco, il fatto che l'allenatore della squadra che stravince tutto, ecco, si sia messo in gioco con la nazionale, che vicino a sé abbia due importanti allenatori di club, che la federazione si sia impegnata in maniera importante per un rilancio. Poi è chiaro, i risultati della nazionale di Recalcati sono lì e questi non li può cancellare nessuno. Sono stati risultati importanti, Frates, Piccin, è stato un periodo importante per la nostra pallacanestro. Però adesso chiaramente noi ci confrontiamo con una pallacanestro così che corre. E questa nazionale così ha dato l'impressione di avere delle facce così belle, piene di buona volontà, piene di entusiasmo. Ecco, io credo che noi dobbiamo trovare tanto entusiasmo, anche se poi dopo non sarà facile agli europei. No, arrivare agli Olimpiadi, credo che dagli europei, insomma, alquanto improbo. Però bisogna puntare a quello perché è chiaro che sarebbe un salto triplo, però è un salto triplo, sì, del quale la nostra pallacanestro dopo avrebbe bisogno. Di vacche magra ha bisogno, anche perché tutto sommato i riflessi che arrivano dalle coppe europee di quest'anno, abbiamo la solita Siena che fa il paio con l'Inter, grosso modo, però anche Treviso e Caserta sono avanti con i lavori. Andrea? Sì, pronto? Pronto, sì. Buongiorno, dica. Buongiorno, senta, io vorrei una vostra considerazione sulla crescita, credo indubbia della lottomatica sotto Filipposchi, e che con il rientro dei grandi infortunati, insomma, si propone bene, credo, per i playoff. Per cosa ne pensate? Grazie. Grazie a lei, ma non mi sembra ancora presto per valutare una Roma che è ancora abbastanza malata nonostante la vittoria su Milano. Tornerà Vitali domenica, oggetto ormai del contendere. Vitali, sappiamo, è stato a un passo dal trasferirsi, dal tornare a Montegranaro, poi non è andata così, poi domenica torna. Mi sembra ancora una squadra piena di punti irrisolti, Roma, o no? Insomma, quando saranno a pieno organico saranno mai a pieno organico, ecco, no, non saranno mai a pieno organico, però io credo che Roma sia una squadra in crescita, io la vedo dentro i playoff, la vedo, perché adesso hanno trovato un po' una quadratura del cerchio, i giocatori mi sembrano un po' più disponibili a sacrificarsi l'uno con l'altro, ci sono delle responsabilità abbastanza definite, e poi rientrerà Gigli, rientrerà Giacchetti, insomma, dopo l'organico è di primo livello, insomma, c'è poco da dire. Senti Bruno, torno a Cantù, la soddisfazione più grande di quest'anno, fin qui è ancora molto presto, ma fin qui qual è stata? La finale di Coppa Italia forse? O forse qualcosa di più sotterraneo, qualche momento diverso? Ma noi la cosa che ha dato più soddisfazione a tutti è stata l'autorità con cui siamo andati a vincere a Montegranaro, con la quale abbiamo vinto ad Avellino, con la quale siamo andati in finale, anche se Avellino quando ha giocato con noi in semifinale era veramente a pezzi, perché gli mancavano un sacco di giocatori ed erano proprio, e avevano speso tantissimo con Milano il giorno prima. Ecco, però l'autorità con la quale noi siamo andati a vincere su campi anche così notoriamente difficili, ecco, questo è stato un bel segno di maturità, i giocatori hanno fiducia nei loro compagni, ecco, questo credo che sia la cosa più bella. È chiaro che vincere è il miglior viatico per vincere ancora, ecco, perché tutti prendono fiducia, sanno che se anche vanno sotto di qualche punto poi si può rimontare, si può rientrare. Ecco, il grado di maturità è abbastanza alto. Certo, quando ci confrontiamo con squadre fisicamente molto più forti di noi, come è Siena soprattutto, è chiaro che lì si alza, come dice Trinchieri, si alza l'asticella e insomma possiamo fare come la lambada, ci passiamo sotto, ecco, però passarci sopra è un po' difficile. Cosa vi ha dato l'Europa? Il viaggio in Europa cosa vi ha dato? Ma, a parte tanta fatica e un sacco di valigie, ma noi abbiamo stati un po' sfortunati, perché sono rimaste accoppiate tre trasferte di campionato a tre trasferte di coppa, e questo veramente ci ha distrutto dal punto di vista fisico organizzativo. Ecco, siamo consapevoli di essere usciti non benissimo, perché la partita che abbiamo perso in Olanda è stata veramente una partita sciagurata. Abbiamo capito che in un girone di sei partite non si deve perdere la partita che non si deve perdere, perché altrimenti non si può più recuperare, mentre in un girone di 10 partite uno può anche fare una fesseria e magari una pezza ce la mette. Su sei partite una pezza uno non ce la mette mai. Abbiamo fatto un'esperienza, abbiamo capito che in Coppa ogni tanto gli arbitri stanno lì e amministrano, ecco, senza operare tanto il fischietto, e insomma ci è servita a questo punto di vista. Io credo che la Coppa sia un'esperienza importante, ecco. Poi è chiaro, noi abbiamo molti giocatori europei che hanno giocato in tanti paesi europei, che hanno già fatto coppe, quindi forse non avremmo bisogno, però per esempio per molti giocatori americani che arrivano dall'America per la prima volta in Europa, giocare la coppa è un modo di confrontarsi, certo, con una pallacanestro che loro non conoscono. E poi visto mai che sia propedeutica rispetto a quello che ad altre coppe, ad altre coppe, ad altre noi coppe. Intanto rimaniamo su con i piedi per terra, e l'Eurocup è di livello tecnico molto alto. Sì, ecco. Antonio Salerno, buongiorno. Buongiorno. Salve, io volevo chiedere questo. Se due società come Milano e Roma, che spendono tanti tanti soldi da tanti anni in giocatori, utilizzassero parte del loro budget per far rientrare in Italia due allenatori di alto livello come Messina e Scariolo, ecco, mi chiedo, questo, oltre ovviamente a fare sicuramente le fortune di Milano e di Roma, non avrebbe una ripercussione su tutto il movimento cestistico italiano, sia sul settore tecnico, che mi sembra abbia qualche difficoltà negli ultimi anni, sia anche sotto l'aspetto del, come dire, del seguito da parte dei mass media? Intanto Messina magari torna, Scariolo adesso non se ne parla, però Messina magari torna, e certamente sono due allenatori e anche due personaggi che potrebbero essere utili, coinvolgenti, o no Bruno? Ma sì, questo sicuramente. Allora, bisogna dire che Scariolo interista già me lo mettiamo su un gradino un po' più alto. Messina è milanista e già qualche dubbio ce lo fa venire. Fa il bravo, ecco. Che oggi sorteggi dico ecco. Fa il bravo, che oggi sorteggi ecco. Di Coppa. Ecco. Però io ho un'altissima opinione di Ettore Messina, cioè secondo me potrebbe essere un eccellente presidente del Consiglio, un eccellente amministratore delegato di una grande multinazionale. Cioè, secondo me Ettore Messina è un uomo di cultura assoluta. Ecco, e io ho una grandissima opinione di Ettore, come una grandissima opinione di Sergio Scariolo. Sicuramente due allenatori così che tornassero in Italia, io farebbero del bene alla nostra pallacanestro. Io credo che il livello degli allenatori italiani sia molto alto, perché abbiamo degli allenatori, anche quelli che hanno picchiato la faccia e che hanno finito con un esonero come Buchi, come Buchi, Bonicioli, così, sono allenatori veramente di alto livello tecnico e di grosso spessore personale. Io credo che il problema di Roma e di Milano sia che fare la pallacanestro Roma-Milano è molto difficile. Io sono sempre dell'idea che la pallacanestro è lo sport delle città piccole, e nelle città grandi è molto difficile, perché sono obbligate a fare qualcosa di molto importante e a farlo subito non è facile, e poi ogni anno è subito perché loro non possono fare un progetto, ecco. E quindi io credo che sì, due allenatori così importanti sicuramente sarebbero un valore aggiunto importante, però anche a loro si chiederebbe di vincere subito e che non è possibile. Flavio Anquillo, buongiorno. Ciao Flavio. Buongiorno a voi. Non so se tu voteresti Ettore Messina alla presidenza del Consiglio, però come Bruno Arrigoni, però. Guarda che non ha fatto una battuta, si riferiva a uno spessore superiore a quello del basket. Trovo perfetta la definizione di Bruno, poi al di là della presidenza del Consiglio, ma assolutamente, la consistenza è quella. Senti, Olympiacos Siena ci siamo settimana prossima, prime due gare martedì e giovedì in Grecia. Dove vedi la chiave sotto lo zerbino di questa serie? Ma io penso che la chiave sia abbastanza facilmente nell'impatto fisico, cioè quale sarà la possibilità di Siena di gestire un impatto fisico che è superiore sulla carta, sia per qualità, diciamo così, soprattutto nei lunghi, che per quantità, soprattutto, da una parte. E dall'altra, se Siena riesce a gestire questo, poi può avere dei vantaggi finché continua a viaggiare sotto traccia. Finché tutti continuano a pensare, come correttamente dice la carta, tanto alla fine vince l'Olympiacos, ecco, fino a che continua così, Siena, che è una squadra secondo me diabolica in questo, quando parte con gli sfavori del pronostico, sì. Ha una possibilità e ce l'ha autentica. Loro sono stati molto bravi ogni volta che sono partiti underrated, sottovalutati, a ribaltare il pronostico, perché hanno una trama tecnica tra giocatore e allenatore molto consistente e molto coriacea. Ecco, io credo che se loro possono giocarsi la loro pallacanestro e non si lasciano tirar dentro, possono fare la sorpresa. Ecco, loro veramente sono una specie di come si diceva prima, una testuggine, ecco, o la falange macedone, ecco, sono molto bravi in questo. C'è l'Olympiacos eterni perdenti, con tutti i quattrini che spendono. Ne avessi tu a disposizione no, quel budget, ma sarebbe anche più facile buttarli via dopo quel punto lì, perché poi dopo l'unità di misura diventa il milione di euro, e allora dopo è tutto parametrato a quello, e poi dopo li piglia anche quello che porta le valigie. Sì, curioso l'osservazione che faceva prima l'ascoltatore, curioso che non abbiano mai investito così tanto in un allenatore in grado di fargli fare il salto di qualità, in un top coach a livello europeo, perché non dirmi che lo è Giannakis, per esempio. Giannakis era il campione del mondo, l'allenatore emergente, è greco, è il simbolo della pallacanestro greca. Però non è Ettore Messina, per dire. Chiaramente non è Ettore Messina, però insomma di Ettore Messina è che ce ne sono tanti. Ci sono tanti allenatori bravi in giro per l'Europa. Mi dispiace che non ci siano più allenatori italiani in giro per l'Europa, perché noi veramente abbiamo una scuola di allenatori di eccellente livello. Il caso Messina, comunque, che impressione ti ha fatto? Cioè, che sensazioni hai avuto? tu dicevi difficile vincere a Milano, difficile vincere a Roma, ma non è che a Madrid sia più semplice, eh? No. E anche di soldi nei anzi, tanti. Anzi, a Madrid è ancora più difficile, concorrenza col calcio, quest'anno con l'arrivo di Mourinho sicuramente ci sarà stata una redistribuzione dei pani e dei pesci, per cui magari tutti i programmi che c'erano all'inizio poi non sono stati ottemperati fino in fondo. Io credo che sicuramente la squadra fosse una squadra difficile da gestire, perché la coesistenza fra quelli vecchi e quelli nuovi arrivati forse non era così semplice, ecco. Ettore è un uomo di grandi principi, io rispetto la sua decisione, al di là dei soldi che ha lasciato lì, che non sono proprio da disprezzare, ecco, però rispetto la sua decisione, se l'ha presa era perché è arrivato in un momento insostenibile e che c'era qualcosa che sicuramente che noi magari non sappiamo, certo. e che sicuramente gli faceva vedere che non ne sarebbe venuto fuori mai in nessuna maniera. Bruno, domani? Dove giocate domani? No? Domani sera con Caserta, sì. Sull'altra, al tuo posto, sull'altra panchina, c'è Antonello Riva. Come la vedi questa sfida? Tra te e Antonello Riva, ma soprattutto tra voi e Caserta? Ecco, se ci mettiamo a giocare non c'è una gran sfida, no, chiaramente. O ci mettiamo col fisico, non credo che c'è una grande sfida. Tra l'altro, ecco. È ancora tiratissimo. Sì, Antonello è bestiale con le sue camminate sulle montagne, è pazzesco. Vabbè, devo dire questo, che Antonello quando è venuto via da Cantù è andato a giocare a Rieti, è andato via chiaramente non contento. Ecco, lui però lì si è ricostruito, ha portato Rieti dalla B in A2 e poi si è riscattato come dirigente, perché era un po' l'accordo che aveva preso quando andò a Rieti a giocare. Ecco, e Antonello veramente è stato bravissimo, perché Antonello fa tutto nella società, dai tesseramenti, la parte organizzativa, la ricerca dei giocatori, veramente si è riciclato con una professionalità altissima, in brevissimo tempo, in luoghi non facili, certo. È stato a Rieti, poi è andato a Veroli, poi è andato a Caserta, e io credo che Antonello sia sicuramente uno dei personaggi, oggi è uno dei personaggi importanti della nostra pallacanestro, si è riciclato in questa nuova attività, lo sta facendo benissimo, lo fa con molta umiltà, ecco, perché nessuno mai sente parlare di Antonello, però lo fa veramente stando 24 ore al giorno in ufficio, cosa che io per esempio non mi sogno più di fare. Devi venire a trovare me. Senti, adesso come abbiamo ultimo appuntamento con il Sei Nazioni di rugby, c'è cioè lo speciale come ogni venerdì in epoca di Sei Nazioni curato da Dario Ricci, domani l'Italia gioca contro la Scozia, l'ultima partita, avremo tutto il pomeriggio per parlarne anche con gli ascoltatori che non vedono l'ora, io credo, però intanto questo primo assaggio, poi torniamo per i saluti con Bruno Arrigoni. Speciale Sei Nazioni. Tamburi e cornamuse che scendono dalle Highlands, e beh, lo sapete, lo avete capito, domani l'Italia è a Murrayfield, nel tempio del rugby scozzese ad Edimburgo, giochiamo contro la Scozia, che tra l'altro a Murrayfield nel 2007 abbiamo già battuto, e ci giochiamo di fatto il cucchiaio di legno, l'ultimo posto nel Sei Nazioni, la Scozia è ancora a 0 punti, l'Italia reduce dalla straordinaria e storica vittoria del Flaminio contro la Francia. Ebbene, allora, nostro ospite per questo speciale Sei Nazioni, un campione che l'Italia e la Scozia le conosce davvero bene, Massimo Cutitta, leggenda del rugby italiano, uno degli eroi di Grenoble, della storica vittoria del 1997 proprio contro i francesi, e che oggi è allenatore degli Avanti scozzesi. Quindi derby assolutamente particolare per Massimo Cutitta. Allora Massimo, benvenuto a Radio 24. Beh, com'è stata vissuta dagli scozzesi la vittoria dell'Italia sulla Francia? Ma devo dire la verità, cioè facevano il tifo per l'Italia gli scozzesi, quando vedevamo la partita. Secondo loro è stata una cosa importante, perché mette in discussione tutto il Sei Nazioni. Facevano tutti quanti il tifo per l'Italia, a sorpresa mia. anche se saremo avversari sabato. Ecco, tra l'altro invece si è vista una Scozia che contro l'Inghilterra è sembrata in ripresa, no? Dopo le difficoltà delle precedenti due partite. Sì, sapevamo che sarebbe stata molto difficile contro l'Inghilterra, però diciamo che l'Italia ci ha dato quella forza, di la vittoria dell'Italia ci ha fatto credere che tutto era possibile, infatti siamo arrivati molto vicini, quindi è stata una cosa positiva il fatto di aver visto che comunque si possono fare dei risultati anche con le squadre, quindi quello ci ha dato una grande forza. Dal punto di vista tattico, che sfida sarà quella di Murrayfield tra gli scozzesi e gli azzurri, tra voi scozzesi e gli azzurri? Ma per noi è importante vincere la partita, quindi l'Italia l'ha già vinta e penso che sia importante non per noi vincere almeno contro l'Italia, anche se sappiamo benissimo che l'Italia ha una grande squadra, quindi c'è molto rispetto per l'Italia da parte degli scozzesi. Sarà sfida soprattutto di mischie e quindi l'argomento ti chiama direttamente in causa. Dal punto di vista tecnico, che sfida ti aspetti tra le prime linee? Sarà difficile perché l'Italia c'è una signora squadra, c'è una prima linea molto forte, ha degli uomini veramente con esperienza, quindi però anche i nostri non sono di meno, direi. Comunque sarà una bella sfida, ce la metteranno tutta sicuramente i ragazzi. Presentaci alcuni dei protagonisti della squadra scozzese in modo tale che anche i nostri ascoltatori possano concentrarsi su alcuni dei vostri campioni. Ma in prima linea abbiamo Alan Jacobson, che è il pilone sinistro numero uno, che sta giocando discretamente bene anche nel gioco aperto. Abbiamo il tallonatore Ross Ford, che è un bello sportivo, anche lui, diciamo, domenica ha fatto una gran bella partita. Nelle seconde linee abbiamo il giovane Richie Gray, che sta veramente uscendo fuori, alto 2,07 metri. Gioca veramente molto dinamico, molto, molto forte fisicamente, tecnicamente forte. È un ragazzo che sta crescendo e diciamo, sta facendo fin troppo bene fino adesso. Comunque vado a finire il terzo tempo con chi lo farai? Con gli scozzesi o con gli italiani o con tutte e due? Con tutte e due. Il mio cuore è con l'Italia, ma il mio lavoro mi porta a essere leale e corretto con chi lavoro, quindi con gli scozzesi. E allora buon rugby a Massimo Cutitta e un saluto da Dario Ricci. Cari Parma, sponsor della Nazionale Italiana Rugby, vi ha presentato Speciale 6 Nazioni. Domani torniamo a parlarne dalle 5 alle 6, tutti qui per capire come finirà l'avventura italiana nella 6 Nazioni. Io ho giusto il tempo per salutare Bruno Arrigoni e dirgli che con la sua dichiarazione di fede interista si è procurato la simpatia anche di qualche varesino. C'è uno che scrive: grande Arrigoni interista, detto da un varesino non è poco. Quindi qualche ti sei fatto qualche credito qualche per amici, qualche amico, ma anche qualche nemico probabilmente mi sarò fatto comunque. Bruno, grazie, torna a trovarci. Spero proprio di sì, grazie a voi dell'invito. Ci sentiamo in playoff time, anzi ci sentiamo a ridosso della partita con Milano, che sarà la chiave di volta di questa stagione. Va bene, tanti auguri a tutti e grazie a voi. Grazie Bruno Arrigoni, Franco Piantanida in redazione, Carmelo Lauriciani in regia, ci sentiamo domani alle 5.